questo baccano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Non ci faremo comandare da un negro. Queste le parole minacciose che vengono dai gruppi neonazisti e neorazzisti americani. I suprematisti bianchi volevano uccidere Obama 2 mesi fa, mentre parlava alla Convention Democratica di Denver, ma la polizia della capitale del Colorado li teneva d'occhio da tempo, fermò 4 persone e mise le mani sul loro arsenale. Avremmo sparato a Obama da grande distanza, circa 750 metri, con un fucile, confessò uno degli arrestati. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Filippo Aureggi, e sì, è la stampa che va a guardare chi sono quelli che volevano uccidere Obama, il candidato alla presidenza degli Stati Uniti che sembra addirittura d'arrivo secondo gli ultimi sondaggi. Beh, sono gruppi neonazisti e dice, scrive la stampa, adesso lo spauracchio razzista allarma l'America. La candidatura di Barack Obama è stata una manna per il nostro movimento. Don Black, creatore del sito internet suprematista bianco Stormfront, è uno dei leader dei gruppi razzisti americani che sta traendo giovamento in termini di raccolta di adesioni come anche di fondi dal successo politico del candidato afroamericano alla presidenza. Tanto più Obama avanza verso la Casa Bianca, tanto più i suprematisti sentono crescere la loro forza, con un'inversione di tendenza rispetto al forte declino registrato a partire dalla fine degli anni 70. E abbiamo dei dati veramente insomma abbastanza impressionanti anche in termini di cifre, perché qui scrive la stampa, Maurizio Molinari, dal corrispondente da New York per la stampa, i dati raccolti dall'investigatore dell'FBI e dai ricercatori del Southern Poverty Law Center di Montgomery in Alabama concordano nell'indicare non solo un aumento del numero di iscritti ma anche un proliferare di nuovi gruppi razzisti. Oggi sono stimati in circa 900, con un aumento del 5% rispetto a 2 anni fa. È un totale militante che supera le 50.000 anime, insomma, un'organizzazione molto forte. Questo su tutti i quotidiani, su quotidiani di tutto il mondo, il svelamento del fatto che volevano uccidere Obama, Barack Obama. Il quotidiano La Stampa però si occupa anche di altre 2 tematiche di grande interesse e attualità. Uno è la rivolta dei rettori, pronti a dimetterci, e parla Profumo del Politecnico di Torino, no ai tagli. Non si placa lo scontro sulla scuola, anzi ieri si è aperto un altro fronte, quello dell'università. Infatti il rettore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo, in un'intervista alla stampa ha minacciato dimissioni di massa se l'esecutivo non cambierà strada, ritirando tagli insostenibili e aprendo la via a una seria riforma. Intanto continuano i blocchi e le proteste degli studenti contro il ministro Gelmini, e qui abbiamo sulla stampa una intervista del rettore Francesco Profumo. Sono pronto a dimettermi. Il rettore Francesco Profumo butta sul tavolo della discussione delle proteste che agitano le università italiane tutto il peso e il prestigio di uno dei più accreditati atenei d'Europa, il Politecnico di Torino. Se il governo non cambierà strada convocando i rettori, ritirando tagli insostenibili e aprendo la via a una seria riforma dell'università, non potrò che dimettermi insieme agli altri rettori italiani. Ne abbiamo parlato, siamo tutti d'accordo. Ed Enrico De Cleva, magnifico della Statale di Milano e presidente della conferenza dei rettori, conferma: non potremo fare altro. La finanziaria infligge all'università un colpo mortale. Questo è un giudizio molto pesante fatto appunto dai rettori delle università più importanti, o alcune comunque delle più importanti università. La stampa affida invece a Pietro Garibaldi un tema assai delicato, che è quello della condizione dei precari nella crisi in atto che ha colpito tutte le economie occidentali. Mentre la borsa continua a crollare, le preoccupazioni di tecnici e politici si spostano sull'economia reale, scrive Pietro Garibaldi. Dai mercati finanziari la crisi è infatti destinata a colpire le decisioni di imprese, consumatori e lavoratori. I primi segnali di crisi sono già evidenti, come testimoniato dal calo della produzione industriale e della forte riduzione della fiducia dei consumatori. Il repentino aumento del numero di imprese che accedono alla cassa integrazione, denunciato in questi giorni anche dal sindacato, rappresenta un ulteriore e significativo campanello d'allarme. Tra qualche mese inizieranno a vedersi i primi licenziamenti. Una priorità, scrive Pietro Garibaldi sulla quotidiana La Stampa, quasi assoluta dovrebbe quindi essere quella di riordinare gli ammortizzatori sociali. Con l'arrivo dei licenziamenti, i primi ad essere colpiti saranno i circa 4 milioni di lavoratori precari. È inevitabile, quando un contratto è a tempo determinato, per interrompere un rapporto di lavoro non è necessario passare per il licenziamento, è sufficiente che un'impresa non rinnovi il contratto alla scadenza. Lo stesso discorso, addirittura amplificato, si applica ai lavoratori impiegati con un contratto a progetto. Pietro Garibaldi dice: paradossalmente i lavoratori che saranno più colpiti dall'arrivo della crisi appartengono a quella crescente fascia di lavoratori che già oggi hanno una retribuzione inferiore alla media e che non hanno accesso a ferie pagate e a maternità. Tutelare questi lavoratori dovrebbe essere una priorità. I lavoratori a tempo indeterminato delle grandi imprese sono in larga parte coperti. In caso di crisi aziendale, da una grande impresa si accede alla cassa integrazione. Straordinario, insomma, dice Pietro Garibaldi, appunto, dobbiamo dare un'attenzione massima ai lavoratori precari, perché sono quelli che vengono maggiormente colpiti. E per rimanere nell'economia, voglio citarvi l'apertura del Sole 24 Ore, l'avete già sentito, è quello che potrebbe muovere forse una ripresa dei mercati. BCE e Fed pronte a tagliare i tassi, cadono le borse asiatiche per il super yen, giù l'Europa e Wall Street. Questo è il titolo di oggi del Sole 24 Ore, ma abbiamo sentito dal GR che mi sembra di capire che i segnali da Tokyo stamane invece sono buoni, e forse c'è un ripensamento dei mercati a seguito, diciamo, degli annunci di taglio dei tassi, che sono poi lo strumento per fermare, diciamo, per fermare la recessione. E poi ancora Stefano Folli invece, il politologo, il giornalista politico del Sole 24 Ore, si occupa della fase post manifestazione del Partito Democratico. Il buonsenso suggerisce di evitare lo scontro sulla legge europea. E già, in realtà Stefano Folli, non solo Folli come vedremo, si occupa del tema della legge elettorale in vista dell'Europa. Perché Silvio Berlusconi ha reagito con tanta asprezza alla manifestazione del Partito Democratico? In fondo si è trattato di un raduno disciplinato, utile a restituire un po' d'orgoglio al centro-sinistra, ma certo insufficiente a cambiare i destini politici del Paese. In linea generale, un'opposizione più solida, meno prigioniera delle sue inquietudini, è senz'altro positiva per l'equilibrio del sistema democratico. Adesso torneremo sulle posizioni di Stefano Folli a proposito della legge elettorale. Voglio solo dirvi che Stefano Folli sarà l'ospite della trasmissione condotta dal direttore Gianfranco Fabi Dietro la Notizia alle 8.30. Adesso diamo la linea all'anticipazione del GR e poi torniamo alla rassegna stampa. Evitare lo scontro sulla legge elettorale europea. E questo quanto chiede il Sole 24 Ore nel commento di Stefano Folli di oggi. E scrive Folli a questo proposito: si veda il caso della legge elettorale per le europee. La maggioranza di governo ovviamente ha i numeri per riformarla, ma il modello proposto, sbarramento al 5% e niente preferenze, suscita diffidenza e aperti contrasti. Ha il sapore di una norma liberticida contro i partiti medio-piccoli, a cominciare da UDC fino all'estrema sinistra. In altri momenti il PD avrebbe lasciato fare, immaginando di ricavare un considerevole vantaggio da una siffatta riforma, ma i tempi del condominio Berlusconi-Veltroni sono tramontati. Scrive ancora Folli: Berlusconi non sembra propenso a concedere qualcosa, non gradisce che pezzi della sua maggioranza comincino a dialogare con segmenti dell'opposizione, così facendo però si rischia di perpetuare la politica delle porte chiuse. E se per Folli questo giudizio sulla legge elettorale è, come dire, riportato come opinione sua, ma anche dell'orientamento di alcuni piccoli e medio partiti, per il Riformista stiamo parlando di una vera e propria legge truffa. Scrive Antonio Polito nell'editoriale di Prima Pagina: la riforma del sistema elettorale per le europee che è approdata ieri in Parlamento è una nuova legge truffa, come quella celebre tenta di cambiare le regole del gioco alla vigilia della partita, adattandole agli interessi interessi dei giocatori. Come il Porcellum tenta di annullare il diritto di scelta da parte degli elettori dei propri eletti. Si propone di introdurre uno sbarramento del 5% nell'elezione di un Parlamento come quello di Strasburgo, che non deve eleggere un governo nel quale quindi le cosiddette esigenze di governabilità non sussistono. Si propone di eliminare il voto di preferenza, affidando ai capi partito la scelta di ogni singolo parlamentare, che così diventa un suo impiegato, non un eletto del popolo. Soprattutto mira a far sparire interi partiti, l'UDC, o a impedire la ricostruzione di partiti che rappresentano una parte della società italiana, la sinistra radicale. Per dirla, è difficile dirla meglio di come l'ha detta ieri Riccardo Nencini, segretario del Partito Socialista, in una lettera aperta a Napolitano. La truffa è fondata su tre falsi. Il primo, si sostiene che il voto di preferenza non esiste negli stati dell'Unione Europea. Secondo, si sostiene che ogni stato dell'Unione ha uno sbarramento elettorale, mentre solo 10 stati su 27 hanno forma di sbarramento diretto. Terzo, si sostiene che non viene tradita la Costituzione italiana, mentre gli articoli 56 e 58 della Carta parlano di suffragio universale e diretto, dove diretto sta per possibilità dell'elettore di scegliere l'eletto. Ecco, questo il Riformista. Quindi una posizione molto dura contro la riforma della legge elettorale europea, che dovrebbe cambiare le regole del gioco in corsa. La Tremonti S.P.A., questo è invece il titolo di apertura del Riformista. Progetto Demanio, il ministro dell'economia ha un piano già pronto per i conti pubblici frenato dalla crisi. È un disegno egemonico sulle banche travolte dallo tsunami finanziario, mentre Giulio Tremonti si prepara un nuovo intervento sulle banche. Nei disegni del ministro c'è anche un polo che assorbirà Demanio, Fintecna e Patrimonio S.P.A. e che sarà posto sotto il cappello della Cassa Depositi e Prestiti. Gestirà il patrimonio immobiliare, investirà direttamente in infrastrutture. La nuova S.P.A. sarà posta fuori dal perimetro della pubblica amministrazione con beneficio dei conti pubblici. Il progetto era già pronto a giugno, ma lo tsunami finanziario ha rinviato tutto. Beh, questo però è un progetto davvero molto molto ambizioso del ministro Tremonti, che già aveva intravisto questa ipotesi tempo fa e oggi può diventare realtà. Diventerebbe anche uno strumento, come dire, di gestione del potere economico molto forte. E poi il Riformista ha sventato il golpe, il piano di Veltroni da qui alle europee. Questo il titolo del Riformista. E a proposito di Veltroni, il quotidiano La Repubblica pubblica lo ha intervistato. Una lunga intervista che così suona. L'impoverimento del paese è ormai una vera e propria emergenza nazionale, dice Walter Veltroni nell'intervista a Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica. Berlusconi fa finta di non averlo capito, ma così l'Italia non può andare avanti. Chiedo al governo un atto immediato di responsabilità. Presenti un decreto urgente per dare, a cominciare dalle tredicesime per i prossimi anni, un importante sgravio fiscale a salari, stipendi e pensioni. È necessario un importo medio tra i 400 e i 600 euro per sostenere la domanda interna, e questo è tanto più necessario per un paese come il nostro, che ha livelli di povertà superiore alla media europea. Sono circa 15 milioni gli italiani sotto o appena sopra la terribile soglia di povertà. Se presentano un provvedimento così, siamo pronti a votarlo subito. Questo Walter Veltroni nell'intervista alla Repubblica. Dice, secondo lei Berlusconi non si rende conto della drammaticità della situazione? Assolutamente no, infatti invita gli imprenditori a cena per convincerli a spendere più soldi per gli spot sulle sue reti TV. Tutto questo è scandaloso, per questo rilancio la mia proposta. Non basta detassare gli straordinari, infrequenti in tempo di recessione. Detassare subito i salari e pensioni che garantiscono i flussi bancari attraverso un fondo di garanzia. E poi dice, ma lei non vuole proprio seguire il consiglio del Cavaliere, che nonostante il bagno di folla di sabato le dice di riposarsi per i prossimi 5 anni? Ho trovato la reazione del Premier francamente imbarazzante. Solo lui poteva pronunciare parole di quel genere che confermano la sua sostanziale estraneità alla cultura delle regole e l'idea sostanzialmente illiberale di una persona che non conosce a fondo la grammatica della vita democratica. Questo è il E poi vi è sempre sulla Repubblica una polemica. Francesco Merlo, come dire, impatta direttamente con la sua polemica col ministro Brunetta. Le piaghe del lavoro italiano non sono i fannulloni, scrive Francesco Merlo sulla Repubblica, che non esistono come categoria determinante, ma i fantuttoni alla Brunetta. Non quelli che fanno nulla, ma quelli che fanno tutto, meglio di tutti. Economia, scuola, cancelli, tornelli, lucchetti, giustizia. E difatti non è più un caso di agitatissima demagogia, ma di psicopatologia politica l'idea che il lavoro possa essere regolato dal cartellino e dai chiavistelli. Questo scrive Francesco Merlo a proposito degli interventi di Brunetta, del ministro Brunetta, adesso anche annunciati per quanto riguarda la giustizia e i magistrati. Ma a questo proposito invece altro tono, altra musica suona su Libero. Brunetta ai magistrati: dai, lavorate di più. Dopo l'annuncio del ministro di voler mettere i tornelli anche nei tribunali, le toghe protestano e accusano, scrive Libero. Ma allora devono spiegare perché la giustizia è così inefficiente. Se prendessimo per buone le tesi di certi PM, allora dovremmo dire che la reazione stizzita della magistratura alla proposta del ministro Brunetta di voler mettere i tornelli anche dei tribunali italiani puzza. Se uno non ha nulla da nascondere o da temere, perché reagire così rabbiosamente? I giudici lavorano mattina e pomeriggio? Meglio, vorrà dire che certe voci sui tribunali deserti delle tre in poi sono il frutto della fantasia. Ma noi non siamo come certi PM, noi non ci intestardiamo con accuse di portare avanti a tutti i costi. Noi crediamo alla buona fede di ognuno, quindi anche la loro. Resta un fatto: Brunetta ha dichiarato che vi sono molti PM che lavorano solo 2 o 3 giorni la settimana, poi basta. Se le parole hanno un senso, qualcuno dovrebbe proferir parola. Brunetta dice il vero o dice il falso? Mi sono letto con grande attenzione l'intervista che il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, Luca Palamara, ha rilasciato ieri alla Stampa di Torino. Ne trascrivo qualche pezzetto per poi buttare giù qualche considerazione a voce alta. Mi creda, se i magistrati, specialmente quelli giudicanti, quelli della giustizia civile, decidessero di lavorare sempre in ufficio, non sapremmo dove metterli. Manca lo spazio fisico per ospitare i giudici. Meno male che esiste la possibilità di lasciarli lavorare a casa. Infine, aggiunge: siamo senza soldi, dovrebbero ringraziarci. E qui c'è tutta un'analisi di Gianluigi Paragone sul tema. Il quotidiano Libero pubblica anche in prima pagina un appello al governo di Vittorio Feltri, che è singolare, però diciamo interessante. Per favore salvate questi cavalli. I cavalli ultimamente corrono dappertutto, autostrade, piazze, tangenziali, sotto le sedi dei ministeri, tranne che nei luoghi loro riservati, gli ippodromi. Nei giorni scorsi hanno bloccato per ore la Bologna-Firenze, quell'esile lingua d'asfalto, unico collegamento tra Milano e Roma. Hanno anche sfilato per le strade del capoluogo lombardo con un migliaio di operatori ippici a seguito. Gente... Quindi vediamo, dice Feltri a proposito dei cavalli e della necessità di salvarli, che sta imboccando il viale della disoccupazione, ma non per scelta o mancanza di impegno. Cavalli e lavoratori sono stati semplicemente traditi e spremuti dalle avide mani della politica e delle istituzioni che avrebbero dovuto garantire loro un futuro. Da troppi anni il palazzo ha scelto come condottieri generali in pensione senza alcuna esperienza settoriale pescati dalle liste clientelari o parentali. Per favore salvate questi cavalli, Zaia mantiene la promessa, ora tocca ai parlamentari non togliere il lavoro a 50.000 famiglie italiane. Crisi ippica, manifestazione oggi e domani in Veneto. Quindi diciamo uno spazio dedicato. Adesso diamo la linea alle notizie sul traffico e poi torniamo alla rassegna stampa. Effetto Haider, il voto a Bolzano. Alle provinciali avanza il partito xenofobo che odia l'Italia. Perde la destra, la CDL giù, cresce il PD, la Südtirol Volkspartei cala ma resta al primo posto con il 48%. Sì, il quotidiano L'Unità dedica la prima pagina a questa notizia, che c'è anche sugli altri giornali. E scrive da Tony Jopp: strano ma vero, il voto italiano salva la SVP dal disastro. Dal partito di raccolta fuga verso i nazionalisti amici di Haider. Il PDL annaspa, il PD vince nei centri urbani, i Verdi tornano a galla nel nome di Langer. Qui c'è un servizio che analizza il voto, ma accanto xenofobi e separatisti, fratellini di Haider, possiamo fare a meno degli italiani? E ancora, niente soldi ai monumenti ebraici. Ecco chi sono i vincitori dello Freiheitlichen, che rischia di creare imbarazzo perfino ai cugini austriaci. Pochi giorni fa hanno avuto la benedizione del successore di Haider, Hans Christian Strache, leader della FPÖ. Vogliamo che l'Alto Adige possa scegliere se restare nel quadro statale italiano o austriaco con un referendum. Ieri hanno triplicato i voti con lo slogan "Possiamo fare a meno degli italiani". Ecco, questo è quello che viene indicato dall'Unità. L'Unità, tra altre cose, invece dedica un servizio molto ampio a quel dossier salva giustizia che il governo ha fatto sparire. Altro che magistrati scansafatiche, la relazione Mirabelli, pochi organici e zero fondi. Una X-File all'italiana è sepolta nei cassetti del ministero, nessuno lo la considera. Ed è un faldone di 70 pagine redatto alla fine del 2007 da una commissione presieduta dal presidente emerito della Corte Costituzionale, i tribunali bloccati da 16 mesi di arretrati, il problema delle sedi scoperte. E Massimo Solani ci illustra questo documento che sembra sia sparito tra i faldoni. Il giornale e invece mette, sottolinea quello che sta avvenendo nelle scuole. Ci siamo, nelle scuole in rivolta sono già cominciati i pestaggi. A Roma e a Napoli i primi scontri tra studenti di sinistra e di destra, tre feriti e la pioggia raffredda l'autunno caldo, cortei disertati in piazza, quattro gatti. E poi ancora, beh, intanto c'è una multifoto, cioè ovvero un'immagine con 4, 8, 12, 16, 20 foto. Se il lavoro è un affare di famiglia, ecco la sinistra dei figli di papà. Dall'Unità arriva un'accusa alla cultura familista dell'Italia, dove anche per fare il netturbino serve avere un amico, ma dimentica anche i Natali illustri dei leader del PD. Esempi, eccoli. Veltroni è figlio di Vittorio, storico dirigente Rai. D'Alema è figlio di Giuseppe, funzionario PC, deputato tra il 68 e l'83, e Cristiano Di Pietro è figlio di Tonino ed è un nuovo capo dell'Italia dei valori. Questo scrive il Giornale. Il Giornale poi pubblica i sondaggi a proposito della celebrità, della popolarità, ecco, diciamo, di Berlusconi. Sondaggi per Berlusconi è quasi un plebiscito. Ecco gli ultimi dati raccolti da Euromedia Research sulla fiducia del Premier. Il Cavaliere guadagna altri 2 punti in una settimana e raggiunge quota 72%. In controtendenza l'esecutivo che scende al 59,6%. Il Cavaliere conserva smalto e trend positivo, scrive Vincenzo Lamanna, ma il governo stavolta perde un po' quota. Sempre più in alto, infatti, la fiducia degli italiani verso Silvio Berlusconi, che si attesta al 72%. Cifra record, numeri imbarazzanti, come è solito commentare il diretto interessato. Cala invece il gradimento nei confronti dell'esecutivo, che nel giro di una settimana passa dal 63% al 59,6%. Un dato al ribasso rispetto alle precedenti rilevazioni e quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Euromedia Research. Insomma, quindi c'è una discrasia tra la popolarità del Presidente del Consiglio e la popolarità del governo. Chissà se questo dipende dalle agitazioni e gli scioperi e le occupazioni che ci sono nel mondo della scuola. Ma se noi passiamo al Corriere della Sera, che apre con la notizia economica con la quale ha aperto il Sole 24 Ore, la BCE sia al taglio dei tassi, andiamo alla fabbrica dei docenti, perché Francesco Giavazzi, economista di orientamento centrosinistra, liberista, scrive delle parole molto aspre sulla situazione dell'università. La situazione nelle nostre università è paradossale. Studenti e professori protestano contro una riforma che non esiste. Il ministro, preoccupato dalle proteste, non si decide a spiegare quel che intende fare per riformare l'università. L'unica certezza certezza è che nel prossimo mese si svolgeranno nuovi concorsi per 2.000 posti di ricercatore e 4.000 posti di professore ordinario associato, ai quali seguiranno entro breve altri 1.000 posti di ricercatore, in tutto 7.000 posti, più del 10% dei docenti oggi di ruolo. I 4.000 posti di professore saranno semplicemente promozioni di persone che sono dentro l'università. Le promozioni avverranno secondo vecchie regole, cioè un concorsi finti. È assolutamente inutile che un giovane ricercatore che consegue il dottorato a Chicago o Heidelberg faccia domanda. Di ciascun concorso già si conosce il vincitore. Questo dice Francesco Giavazzi, denunciando una situazione piuttosto brutta. E ancora, e questo sì, raid americano in Siria e crisi con Damasco. Alta tensione tra Siria e Stati Uniti dopo il raid di elicotteri e forze speciali americane oltre i confini iracheno, che ha fatto 8 vittime. Ed è su questo che questa notizia che apre il manifesto. Il manifesto titola infatti l'ultima di Bush, come l'ultima sortita vorrebbe dire di Bush. A 24 ore dal raid che ha ucciso 8 civili in Siria, gli USA rivendicano, la Lega Araba condanna, Parigi irritata chiede spiegazioni e persino Londra si smarca. Il silenzio di Obama e quello dell'Italia. Damasco accusa atto terroristico. Questo sul quotidiano Il Manifesto, che scrive anche: cresce la protesta, Gelmini contestata persino da destra, mobilitazione in tutta Italia, a Roma un corteo con due anime politiche, oggi manifestazioni davanti al Senato, domani il governo vara la controriforma. Sì, manifestazioni divise, perché in una delle due manifestazioni, come scrivono molti giornali, si è partiti al grido di Duce Duce. Insomma, la destra è dentro il movimento ma poi mantiene la sua identità politica. E infine voglio segnalarvi brevemente dal Foglio. Il Foglio scrive: i cattolici spiazzati, niente piazze, niente occupazione, poche polemiche con la Gelmini, ma tra le pieghe della riforma qualche critica arriva non solo dai paolini, da CL ad Azione Cattolica. Ecco chi difende il ministro e chi lo fa un po' meno. E ancora, a proposito di Veltroni, scrive il Foglio: le seconde primarie spingono Veltroni sulla via del nuovo Partito Democratico. Il segretario invita il dalemiano Latore a non essere triste. Rinnovamento e repulisti. La manifestazione di sabato è stato un indiscutibile successo per il Partito Democratico e per Walter Veltroni, che l'aveva lanciata con ben 4 mesi di anticipo, suscitando molte perplessità. Questo il giudizio del quotidiano Il Foglio. Ed ora abbiamo concluso il nostro tempo, quindi io vi saluto e vi do, come di consueto, appuntamento a domattina.